Vita del Beato Federico Janson. Il Beato Federico Janson nacque a Gaivelle in Francia, nella diocesi di Lille, il 19 novembre 1838. Siamo nella Francia del Nord, quindi siamo in Normandia. Il papà si chiamava Pietro Antonio, un benestante e pio contadino. La mamma, Maria Isabella, era una donna di una carità immensa, tanto che pensate il nostro Beato scrisse di lei. Trovava le sue delizie nel visitare i malati, accogliere i poveri e assistere i morenti. Questo nonostante avesse dato al mondo, alla luce, tantissimi figli da accudire. Intanto al fonte battesimale gli furono imposti i nomi di Federico e Cornelio e da piccolo frequentò le scuole elementari del paese natale. Crebbe già da bimbo, con un animo sensibile, portato alla contemplazione e alla preghiera. Dopo la prima comunione entrò nel collegio comunale di Hazebrouck, la cittadina vicino a Gaivelle dove era nato, in cui si segnalò sia per la precoce saggezza quanto per i successi scolastici. Nel frattempo però un grande dolore colpì lui e la sua famiglia. Aveva 10 anni purtroppo e in quei mesi rimase orfano del papà. La mamma, donna forte, energica, rimasta vedova ma purtroppo con una salute veramente gracile, con grande fatica mandava avanti la famiglia e offrì a Dio i 28 anni che trascorse poi nella malattia per ottenere anche la grazia che alcuni suoi figli diventassero sacerdoti. E questa preghiera, cari amici, fu accolta. Infatti dei suoi ragazzi, Pierre entrerà nelle missioni estere e passerà la sua vita come missionario in India. Federico, come vedremo, si farà francescano, mentre Henri, un altro fratello che era anche lui all'interno dei francescani, a causa di un incidente, mentre era ancora in seminario, morì. Ma andiamo per ordine. Siamo nel 1855 e Federico Janson aveva 15 anni e fu iscritto, proprio perché era un ragazzo studioso, quindi desiderava comunque fare una carriera, fu iscritto dai genitori nel collegio di Nostra Signora di Dun, nella città di Dunkerque. Era un ragazzo, dicevamo, studioso, apprezzato sia dai compagni che dai professori. Ma purtroppo a causa, in quel periodo, delle critiche condizioni finanziarie in cui la sua famiglia venne a trovarsi, ci fu un tracollo economico pazzesco a causa di investimenti sbagliati, fu costretto a uscire da quel collegio perché i genitori non riuscivano a pagargli la retta. Non solo, fu costretto a fare il venditore di tele a domicilio per aiutare la famiglia. Ricordiamo che oltretutto era la mamma da sola, poverina, che portava avanti tutto e lui a questo punto diventava il pilastro per mantenere la famiglia, per sfamarla, letteralmente sfamarla. Iniziò allora a vendere tele a domicilio, quindi porta a porta. Ed era bravo, era talmente bravo che il titolare di questa attività gli propose di diventare suo socio. Addirittura pensava che, diciamo, Federico poteva addirittura sposare la figlia in questo caso. In quel periodo, oltretutto, come se non bastasse, anche il fratello Pierre, che poi sarà missionario, dovette interrompere gli studi qui per mancanza proprio di salute. Ma Federico Janson ben presto comprese che il mondo degli affari non era per lui. Infatti sentiva nel cuore un desiderio profondo di donarsi a Gesù e lo faceva nella preghiera, anche nel donarsi ai fratelli, anche se faceva ancora questo lavoro, diciamo, di rappresentanza, ed era desideroso di entrare in un ordine religioso. E in un primo momento si presentò alla trappa, ma i trappisti dissero che non era... Era un po' troppo moderno per entrare in un ordine così rigido e poi aveva diversi agi, perché comunque cominciava a guadagnare qualcosa. Allora decise pian piano, la sua idea fu quella di entrare nell'ordine francescano, anche perché la figura di San Francesco lo colpiva non poco. E questa decisione fu accolta con grande gioia anche dalla mamma, che senza sosta continuava a pregare per lui e anche per i fratelli, perché fosse lui un buon frate e se Dio lo avesse voluto anche un sacerdote santo. Il nostro beato era legatissimo alla mamma, anche perché la mamma era quella che l'aveva portato, l'aveva fatto crescere nella pietà, proprio nella fede, nell'amore per Gesù. E fu per lui un dolore enorme, infinito, quando morì per malattia. Era il 5 maggio del 1861 e lui aveva 23 anni. Pur con la morte nel cuore, cominciò, riprese i suoi studi, lavorando comunque, quindi facendo un po' dell'uno, un po' dell'altro, sempre nel collegio di Hazebrouck, e dopo qualche anno però un'altra prova doveva addolorarlo profondamente. Dicevamo morì il fratello minore Henri. Henri morì annegato purtroppo, quando era in seminario, erano fuori per delle vacanze e morì annegato. Arriviamo così al 26 giugno 1864, dopo aver molto pregato, mise in atto quella che era la sua decisione, che aveva già condiviso anche con la mamma, che ormai era già in paradiso, e allora cosa fece? Andò dai francescani di Amiens, di questa cittadina, chiedendo di essere ammesso al noviziato con il nome di Fra Federico da Santivo. L'inizio non fu facile, infatti in più occasioni fu tentato di recedere da questa scelta che aveva fatto, sia perché cominciava ad avere dei dubbi sulla vocazione, ma anche perché la vita dei francescani e dei frati minori non era affatto facile, era molto rigida, quindi privazioni, c'erano digiuni, si dormiva al freddo, voglio dire, ma lui sentiva però nel cuore questa fiamma, cioè da una parte era tentato dicendo ma non ce la farò mai, dall'altra invece sentiva questo desiderio di essere totalmente di Gesù, comunque di donarsi ai fratelli, di andare avanti. Allora cosa fece? Si rivolse alla Madonna, Madonna che amava moltissimo, e mise sotto il suo manto in modo sincero e pieno la sua vita, il suo cammino. Ebbene, con grande fatica, ma piano piano, la Madonna l'aiutò a superare questi momenti proprio con l'esercizio della virtù, dell'umiltà e dell'obbedienza. Quindi superò questi momenti, dicevamo, piuttosto forti e fu ammesso alla prima professione con il parere unanime dei superiori, anzi dopo aver perfezionato i suoi studi nel convento di Limoges, aver dato prova di vera pietà, nel dicembre del 1868 nel convento di Bourges fu ammesso prima la professione solenne e poi la grande gioia, cioè divenne sacerdote. Il giorno era da mettere nel calendario per lui, perché lo viveva in un modo incredibile. Era il 17 agosto 1870 e da quel giorno la sua vita era ormai pienamente sottomessa alla volontà dei superiori, perché lì vedeva la volontà di Dio. Accettò quindi subito di assistere negli ospedali proprio di questa cittadina di Bourges come cappellano militare i soldati feriti nella guerra franco-prussiana. E molti di quelli che erano in fin di vita, soprattutto sia per quanto riguarda il tifo, sia per le ferite riportate durante i combattimenti, li aiutò a morire in grazia di Dio. Molti erano lontani da Dio, lontani dalla fede, e allora lui li aiutava proprio in questi momenti, per loro di disperazione, ad addolcire il cuore, ad aprirsi a Dio e a incontrarlo da lì a poco, donando loro una parola di speranza e anche di conforto. Non fece solo questo. Fu anche vicemaestro dei novizi a Brandy, quando dopo il disastro di Sedan fu firmata finalmente la pace nel 1871. Cooperò anche alla fondazione di un grande convento francescano a Bordeaux e qui esercitò per alcuni mesi anche il compito di preside. Era una persona profondamente colta, oltre che di grande preghiera e un contemplativo vero. Intanto nel 1874 fu trasferito a Parigi, dove per 2 anni svolse un intenso lavoro a favore dell'ordine francescano. Era profondamente innamorato dell'Eucaristia, Gesù Eucaristia. Quando poteva era lì, davanti a Gesù, a fermarsi, ad adorarlo, ad amarlo. E poi in modo particolare risaltava ed era impressa nel cuore la sua devozione alla Vergine Maria. E una devozione particolare, dobbiamo sottolinearlo, l'aveva per San Giuseppe. E allora quasi per essere ancora più vicino, possiamo dire quasi fisicamente, alla Sacra Famiglia, cosa fece? Chiese ai superiori, che lo stimavano già molto, di andare a servire l'ordine in Terra Santa. Fu accolta questa richiesta e qui per 4 anni fu vicario della custodia di Terra Santa. Ma i confratelli erano lì stupiti nel vederlo sempre così assiduo, composto, preciso, profondamente devoto. Molti forse non sanno che fu proprio lui a ripristinare, ad ottenere dai turchi, perché allora quei luoghi erano sotto il dominio turco, quindi la giurisdizione era loro, e ottenne, diciamo, quindi dai musulmani in questo caso, il permesso di ripristinare a Gerusalemme la Via Crucis, che per secoli era stata poi abolita, e la fece lui per la prima volta lungo la Via Dolorosa proprio il giorno del Venerdì Santo. Era però un pastore profondamente umile, ma soprattutto umile ma ardente di carità verso i fratelli, in particolare quelli più poveri, più disagiati. E un altro padre, padre Bol Balli, un religioso che allora organizzò in quegli anni, pensate, uno dei più grandi pellegrinaggi della Francia per la Terra Santa, quindi erano migliaia di persone, parla proprio dell'efficacia delle parole, della predicazione di padre Federico Janson proprio nel giorno del Venerdì Santo, durante questa via Crucis, che toccava i cuori, diceva, fino alle lacrime. Ma lui fu anche di grande aiuto per alleviare, per quanto era possibile, le difficoltà materiali enormi che dovevano affrontare sia chi abitava lì, come lo sono ancora purtroppo oggi, tante persone, tanti fratelli che abitano in quei luoghi, che sono poveri, senza mezzi. Allora addirittura essendo dominio turco, non gli interessava, cioè la Turchia proprio non interessava minimamente quello che succedeva, potevano morire di fame tranquillamente, ma sia cristiani che musulmani, non era un problema loro quello, anche perché avevano altri problemi i turchi. E quindi cosa faceva lui? Cercava di portare, diciamo, delle offerte che riusciva ad ottenere per aiutare chi abitava lì, ma anche per aiutare i tanti pellegrini che in quei tempi per andare in Terra Santa praticamente consumavano quei pochi soldi che avevano messo da parte. Era il pellegrinaggio della vita, ma molti non avevano più neanche da mangiare. Allora cosa fece? Creò dei centri di accoglienza, proprio dei centri di accoglienza per i pellegrini, perché quando arrivavano lì e avevano appunto terminato quel poco che avevano, avessero almeno un piatto di minestra da mangiare, un luogo dove rifocillarsi. Non guardava naturalmente solo a questo, andava oltre. Egli aveva a cuore soprattutto il loro benessere spirituale, quindi guardava alla loro anima, e facendo in modo che anche i programmi di pellegrinaggio fossero momenti di quiete per la preghiera vera, profonda, la riflessione, la santa confessione, e accoglieva con particolare gioia tutti nella cappellina che sorge sul luogo del Monte Calvario all'interno del Santo Sepolcro, per infondere proprio in quel luogo, in tutti quelli che erano presenti, la perseveranza nello spirito della Santa Croce. E arriviamo al 1881, qui cambia il suo cammino. Infatti Papa Leone XIII, con una bolla papale, invitò, perché era drammatica la situazione in Terra Santa, invitò i cattolici ad aiutare in modo generoso i frati, i custodi di Terra Santa, cioè i frati minori, ma anche tutte le persone che erano lì. Premetto che i frati minori, allora come oggi, non facevano distinzione di religione, quindi che fossero cattolici, cristiani, ortodossi o musulmani, era la stessa cosa, erano fratelli e sono fratelli da aiutare. E allora cosa fecero i superiori di padre Federico Janson? Conoscendolo e stimandolo, lo inviarono nel Quebec, pensate, in Canada, addirittura, cioè dall'altra parte del mondo. Perché? Perché vi organizzasse il terzo ordine francescano, che era scomparso dal Canada con l'occupazione, da quando c'era stata l'occupazione da parte dell'esercito inglese, e poi raccogliesse soprattutto gli aiuti che soprattutto i cattolici avrebbero fatto per aiutare la Terra Santa, a sostegno soprattutto, dicevamo, delle sue opere caritative e di accoglienza. E qui, pur con un filo di tristezza nel cuore, nel dover abbandonare quei luoghi che egli amava tantissimo, obbedì, come sempre, prontamente e andò in Canada, stabilendo la sua residenza nella diocesi di Trois-Rivières, nel Québec, quindi nella parte occidentale del Canada. Anche qui il suo ardore, la sua fede, il suo amore conquistarono sia il clero che il popolo, suscitando uno straordinario entusiasmo per il modo semplice, ma denso, cari amici, di una fede e di una carità profonda con cui predicava i misteri della fede, della nostra fede. E non si fermava, era un apostolo e un predicatore che guardava nei cuori, e la sua spada di fuoco, di fede, era soprattutto la predicazione dei nuovissimi. Quindi la misericordia di Dio è grande, diceva, però attenzione a non abusarne, perché arriverà il momento in cui dovremo fare i conti. Quindi attenzione, perché esiste anche l'inferno. E i nuovissimi erano proprio un esempio di quella che era la sua formidabile predicazione. Ma era anche un esempio per la vita di intensa preghiera e di grande penitenza che conduceva. Insomma, tutti parlavano di lui. Era arrivato qualcosa di nuovo in quei luoghi, a tal punto che, pensate, anche i giornalisti riportarono la notizia. Insomma, tutti nel Quebec seppero del suo arrivo. E qui alcune settimane dopo, il lunedì dopo alcuni giorni, il 12 settembre, rispondendo al suo invito di venerare le reliquie della Terra Santa che lui aveva portato, pensate, oltre 30.000 persone furono presenti accogliendo il suo richiamo. Non solo, la fraternità del Terzo Ordine Francescano ricevette 100 nuovi membri, era praticamente azzerata, non esisteva più, e addirittura 100 novizi vennero ammessi alla professione. Poi, qualche settimana dopo, a conclusione della novena, in preparazione della festa di San Francesco, quindi del 4 ottobre, dovette restare in cattedrale a confessare per 15 ore di seguito, ma non si lamentava mai, anzi lui era felice di portare tanti cuori, di riconciliare tante anime con il Signore. Era il suo sogno, era la sua meraviglia di ogni giorno. E quindi, nonostante la fatica, non solo confessava continuamente o accoglieva, ma iniziò anche il giro della diocesi, che era enorme, predicando e incoraggiando ad un cammino di grazia, di riconciliazione con Gesù. Ma come spesso succede a ognuno di noi, ma soprattutto ai santi, non mancarono i nemici, che cercarono subito di screditarlo sia all'interno dell'ordine francescano, sia con i fedeli, ma il loro tentativo cadde nel vuoto, non attecchì questa provocazione e questa maldicenza nei suoi confronti, no? Pensando chissà cosa era lì a fare, questo che viene a fare. Di fondo, poi, qual era il concetto? Il discorso è che lui rimproverava indirettamente, senza dire una parola, proprio col suo stile di vita, lo stile di vita immorale che che diverse persone vivevano in quei luoghi. E questo naturalmente dava molto fastidio. Ed è prova di questa sua grandezza, proprio di questa sua unione con Gesù, della luce che portava, quello che alcuni mesi dopo il suo arrivo, padre Désilé, che era il superiore del convento, scriveva al ministro generale dell'ordine a Roma, e scriveva così: ci hai mandato un uomo santo, un religioso che ha una straordinaria eloquenza, e un fatto che sono avvenute delle sorprendenti guarigioni, ma quando si considera la sua vita, cioè la vita di Federico Janson, non c'è più motivo di sorprendersi. E molti erano gli ammalati, gli ultimi, che accorrevano per fargli visita, per averne una consolazione, un aiuto. Ed egli si prodigava, senza sosta, donando tutto se stesso. Era praticamente 24 ore al giorno disponibile, dormiva pochissimo, mangiava pochissimo, ma il suo fisico non resse alla stanchezza. Soprattutto nel Canada era un periodo in cui c'era l'inverno, quindi era freddissimo, lui non si curava di questo, e cadde seriamente ammalato, febbre altissima, infiammazione, debolezza estrema, insomma lo portarono addirittura vicino alla morte. Era una cosa estremamente seria, e molte furono le preghiere fatte per lui dalle tantissime persone che gli volevano bene perché avvenisse una guarigione, e il Signore ascoltò, perché qualche mese dopo fu ancora in piedi e, senza perdere tempo, riprese il suo lavoro, il suo apostolato. Da lì a poco però un telegramma doveva riportarlo ancora una volta, pensate, in un nuovo cammino. E in Egitto in quei mesi stava per scoppiare la guerra, quindi doveva rientrare subito in Terra Santa. E qui non è che si era rimesso completamente, nonostante la salute debolissima, il 1 maggio 1882 partiva appunto per quei luoghi santi, sperando, così diceva lui, di poter vedere ancora un'altra volta quella gente benedetta da Dio. Questa è una frase che lui ha detto appunto in questo viaggio. E durante il viaggio fece una brevissima tappa anche a Marsiglia per partecipare al capitolo francescano, approfittando per supplicare i superiori di mandare ancora i francescani in Canada, anche per aiutare i tanti emigrati che c'erano, al di là dei francesi presenti, ma c'erano anche italiani, che non avevano un aiuto anche nel cammino spirituale, erano un po' abbandonati a loro stessi, i sacerdoti erano pochi. Nel frattempo, ad Alessandria d'Egitto, 3 giorni prima che lui arrivasse, ci fu un massacro. Un massacro soprattutto perché erano ammazzati molti europei. E quando arrivò fu costretto a nascondersi per salvarsi la vita. Insomma, per farla breve, raggiunse Gerusalemme il 18 luglio vivo, ma con la salute a pezzi. Aveva comunque pensato di poter tornare in Canada il mese dopo, in agosto, e invece rimase lì per altri 6 anni, pensate. Nel 1884 venne rieletto vice custode, ma quell'anno trascorse gran parte proprio dei mesi nell'infermeria del monastero, afflitto da atroci dolori allo stomaco. Non mancò però nel dolore una grande gioia, e fu quella in cui il fratello Pierre, missionario in India, che non vedeva da 20 anni, andò a fargli visita. E arriviamo così al 1888, quando i superiori ritennero opportuno mandarlo ancora in Canada con gli stessi compiti della volta precedente, ed egli ancora una volta obbedì prontamente. Un testimone nel processo canonico disse di lui che nelle sue azioni andava diritto a Dio e che lo spirito di fede sembrava che l'avesse penetrato fino al midollo delle ossa. La gloria di Dio, la salvezza delle anime, dice questo testimone, erano gli unici moventi che lo spingevano ad operare. E una settimana dopo il suo arrivo in Canada, a Trois-Rivières, il vescovo della diocesi, Monsignor Desilets, dedicò alla Madonna del Rosario nella città di Cap de la Madeleine la nuova chiesa che era stata costruita accanto a quella vecchia, edificata nel 1720. Nel discorso, di inaugurazione che tenne il nostro Beato, lui, padre Federico Janson, lodò l'iniziativa, ma predisse anche che quel santuario si sarebbe rivelato troppo piccolo per contenere i pellegrini che vi sarebbero giunte da tutte le parti del Canada. E in effetti, cari amici, fu proprio così. Fu proprio così, e vedeva, e il Signore gli dava questa luce. Era un vero e santo pastore, un santo sacerdote, unito a Dio con la vita, con le opere, e otteneva davvero grazie straordinarie. Ascoltate questa cosa. Una sera fu condotto in presbiterio, lì all'interno della canonica dove c'era il santuario, un fratello ammalato, tutto rattrappito. Mossi a compassione, tanto il vescovo Monsignor Desilets quanto padre Federico Janson, cosa fecero? Lo presero sotto braccio e lo portarono all'interno del santuario per raccomandarlo alla Madonna, la cui statua era stata posta sull'altare maggiore. Questa statua c'è ancora oggi. Mentre pregavano per questo fratello ammalato, la statua all'improvviso si animò. La Madonna sollevò gli occhi che teneva abbassati e guardò fissa davanti a sé, in modo mesto. In un primo momento il vescovo e il beato credettero di essere vittime di un'illusione ottica, persone molto pratiche, quindi andavano subito alla concretezza. Ma dovettero ricredersi all'evidenza di questo miracolo perché durò circa 10 minuti. Dopo circa dieci minuti, la Madonna abbassò gli occhi e riprese, le sembianze precedenti. Allora, se voi avete l'occasione di vedere un'immagine di questa Madonna anche su internet, no? Del santuario della Madonna del Rosario a Cap della Madeleine, voi vedete che effettivamente la statua di questa Madonna bellissima ha proprio gli occhi abbassati verso il basso. Invece il miracolo fu proprio quello, che aprì e spalancò gli occhi per circa 10 minuti. Era, diciamo, io direi più una grazia o un miracolo, che anticipava quello che lei avrebbe donato a tanti pellegrini che sarebbero arrivati lì a chiedere le grazie, e in modo particolare tramite l'intercessione del nostro padre Federico Jansson. Ma io vi racconto anche un'altra cosa che è successa durante la costruzione di questa chiesa. Praticamente questa qui era una chiesa piccolina, edificata nel 1720. Dovevano decidere se costruirne una più grande, perché non serviva più così, era troppo piccola, non aveva senso. Oltretutto lì c'era la canonica, quindi la gente andava lì. Mentre stavano pensando a cosa fare, questo paese, questa cittadina, è attraversata dal fiume San Lorenzo. Da una sponda all'altra del fiume ci sono 2 chilometri, non 200, 2 chilometri. Quell'inverno non era gelato il fiume, che normalmente veniva attraversato anche dai calessi, era talmente ghiacciato che veniva attraversato dalle persone. Non si sa bene come, comunque dall'altra parte del fiume erano il vescovo con i fedeli, perché hanno pregato molto per questa cosa, videro ammassate molte pietre che erano utili per per costruire la nuova chiesa. Insomma, per farla breve, le pietre erano dall'altra parte, a 2 chilometri di distanza, c'era un fiume da attraversare ma non si poteva. Iniziarono a pregare, a fare la novena, ebbene, il miracolo fu, testimoniato da centinaia di persone, che si aprì praticamente una strada di ghiaccio lunga 5-10 metri, solo quei 5-10 metri di ghiaccio permisero alle persone di andare a prendere le pietre dall'altra parte del fiume, quindi a 2 chilometri, per riportarle lì. Ora ditemi se questo è un fatto normale. Cioè, se il fiume è ghiacciato tutto, non è che si ghiaccia da una parte sola, no? E questo comunque avvenne dopo una preghiera unanime di tutto il popolo. Ritornando a noi e ritornando al nostro beato, molte sono anche le testimonianze apportate all'inchiesta informativa che ebbe luogo 11 anni dopo la sua morte, nel 1927. Io ve le dico perché ci dà l'idea e il taglio di un santo di questo tipo. Il signor Henri Trudel, che abitava a Saint-Stanislas-de-Champlain, quindi un paesino lì vicino, aspettava in quei giorni, purtroppo, e con grande dolore nel cuore, la morte della moglie, ormai gravemente ammalata. Non c'era più niente da fare. Il giorno in cui era andato padre Federico e Jansson per dargli una benedizione, l'aveva, diciamo, tenuta per mano, e lei era caduta per terra, svenuta, proprio durante la sua visita. Allora cosa fecero? La ripresero, la adagiarono piano piano sul letto. Padre Jansson si fermò un attimo a pregare, poi disse: lasciatela dormire perché fra poco starà bene. Ma potete immaginare, il marito sgranò gli occhi, sconcertato, ma anche gli astanti, no? Però, visto che l'aveva detto un sant'uomo, si accese un barlume di speranza. Praticamente la mattina dopo, questa donna si svegliò completamente guarita. In un altro paese, Saint-Charles de Bellechasse, lo portarono perché desse una benedizione ad una ragazza, anch'essa in fin di vita, Anne-Bert Gaslain, che soffriva da 5 anni di tubercolosi, ormai era arrivata alla fine, i dottori l'avevano data per spacciata. Padre Frederick cinse questa ragazza con il suo cordone francescano, pregò su di lei e se ne andò. Un mese dopo la ragazza era guarita. Anzi, più tardi si sposò e divenne la mamma di ben 13 bambini. Un altro, un operaio, in seguito di un incidente nella bottega di un fabbro, non aveva curato la mano, praticamente la mano era andata in cancrena, quindi non c'era altra soluzione che amputarla. Il nostro beato, commosso alla vista di quell'infelice che piangeva, gli disse: tu guarirai. Pregò. Ebbene, nel giro di qualche giorno il gonfiore scomparve e la mano guarì completamente. qui un altro padre, padre Duguay, che viveva con padre Federico Janson in canonica, parlando proprio del tempo trascorso con lui, confidava un altro confratello, a padre Dunay. Gli diceva: per 14 anni, stando con lui, mi parve di vivere in un mondo soprannaturale. In particolare, padre Duguay non poteva dimenticare, ma questo è attestato nelle testimonianze, cioè non è che sono favole, è proprio attestato ed è scritto, non dimenticava quella sera, era il 15 aprile 1893, e padre Federico Janson attraversò il fiume praticamente sulla strada di ghiaccio, sbattuti dalla corrente. Dicevamo che era 2 chilometri da un punto all'altro, e lì era successo che dopo la visita ad una famiglia a Beaconscour, un paesino dall'altra parte del fiume, lui era tornato a casa da solo, senza il carrettiere che lo accompagnava con il calesse, perché quest'ultimo, vedendo che la superficie di ghiaccio si era rotta, non poteva più andare col calesse. Praticamente cosa era successo? Lui era andato, era salito su un lastrone di ghiaccio e aveva fatto la bellezza di 2 chilometri, ditemi se la Madonna non l'ha accompagnato, finendo dall'altra parte della riva, come se fosse una barca. E quando arrivò, il padre della canonica diceva: ma come hai fatto ad arrivare qui, se anche quello col calesse non è riuscito a passare? E lui disse: non so come ho fatto ad arrivare qua, disse padre Federico Janson, mi sono affidato alla Madonna ed eccomi qua. E ancora, per esempio, nella primavera del 1916 c'era una festa degli studenti del seminario francescano a Trois-Rivières. E qui c'erano centinaia di ragazzini, no? Di ragazzi del seminario, che in occasione proprio della raccolta dello zucchero di acero facevano festa. E dovevano però cuocere le frittelle, i cuochi, ma i cuochi dicevano: qua la farina è poca, dice, sarà già tanto se ne sfamiamo un terzo, questi ragazzi qua. E c'era padre Federico Janson, disse ai cuochi, meravigliati, disse: voi non vi preoccupate, voi continuate a cucinare, continuate. Insomma, praticamente mangiarono tutti a sufficienza, tutti quanti, le frittelle in quella giornata. Ci ricorda un po' questo episodio, la vedova di Sarepta con il profeta Elia, no? Vi dico anche l'ultima, ma questo è proprio per spiegare anche la santità di quest'uomo, la sua profonda umiltà e anche il suo nascondimento. Adesso lo vedremo, perché non voleva assolutamente essere lui al centro dell'attenzione e rifuggiva assolutamente ogni tipo di attenzione da parte degli altri. Vi dico questa: a 10 miglia dal paese di Saint-Yves-de-Champlain, sempre in quella zona, c'era stato praticamente l'incendio della foresta, e questo incendio era fuori controllo, non c'erano i mezzi che oggi hanno i vigili del fuoco. Poi sappiamo che il Canada è molto boschivo, e c'era proprio una foresta che circondava praticamente quel distretto, minacciato dalle fiamme altissime, quindi era praticamente impossibile domarle. Questo era il discorso, cioè doveva passare di lì, il fuoco stava praticamente incendiando tutto. Chiesero a padre Federico Janson la grazia, il miracolo di aiutarli. Lui cosa fece? Chiese a tutti i bambini di quel luogo di pregare insieme a lui. Dopo rassicurò tutti che la Madonna del Rosario avrebbe allontanato il pericolo. Lo stesso vescovo, che si trovava proprio in visita pastorale in quel paese, fu testimone proprio, possiamo dire, della fede, del coraggio di questo missionario e della grazia da lui ottenuta in quella notte del 7 giugno del 1891, perché il fuoco non colpì, era una cosa incredibile, cioè per logica sarebbe dovuto andare avanti e quindi bruciare praticamente tutto quello che incontrava. Sfiorò e non colpì il luogo, quindi salvarono le case, ma soprattutto si salvarono gli abitanti. Ma dicevamo, in tutto questo colpisce, cari amici, la semplicità proprio dei gesti, l'umiltà di questo autentico figlio di San Francesco. Lui sapeva bene di essere solo un umile strumento di Dio. Dicevamo, cercava in tutti i modi di evitare di mettersi in vista. Sapeva bene spesso, anzi lo ripeteva spesso questo, diceva: noi contiamo solo per quello che siamo davanti a Dio e niente più. E proprio questa sua unione con Gesù lo portava ad amare, ad offrire al cuore divino e poi al cuore immacolato di Maria ogni sacrificio, ogni rinuncia. Quando era giunto in Canada per la prima volta, il vescovo gli aveva donato un pezzo di terreno perché gli facesse costruire un modesto convento. Nello stesso tempo gli aveva dato una camera piccola nel presbiterio proprio di Cap de la Madeleine, dove c'era il santuario, perché aiutasse il parroco nel servizio appunto del santuario, ma fosse poi anche in grado di raggiungere tutta la diocesi, le località che erano tantissime, per lo svolgimento del suo apostolato. E la camera di cui lui usufruiva era piccola, piccola ma riscaldata, era praticamente fredda, no? Anche d'inverno. E pensate, benché fosse fornita di un letto, per essere vicino, questo poi si è scoperto dopo, e condividere la sofferenza di tanti fratelli che erano poveri, non avevano neanche l'accenno di un letto, lui cosa faceva? Dormiva per terra o sopra una panca avvolto solo nel suo mantello. Pensate, solo 6 anni prima della morte, a causa proprio della gravissima malattia che aveva, avrà purtroppo un tumore allo stomaco, si adatterà a dormire di notte su 3 assi, ricoperte di un pagliericcio e poste su 2 cavalletti di legno. Anche riguardo al cibo, fu di una mortificazione inimitabile, ma chi ne conosceva le abitudini, cioè quello che non riusciva a capire come potesse fare tanto lavoro, tanto apostolato, mettere così tanta energia, dormendo e mangiando così poco. E qui era la grazia. Ma finché visse, lui non modificò questo suo genere di vita. Nel frattempo, in Canada, Monsignor Lafleche, che era il nuovo vescovo di Trois-Rivières, lo pregò comunque di continuare a prestare il suo servizio nel santuario della Madonna del Rosario, e lui accolse l'invito con entusiasmo, lieto di donarsi totalmente per anni, anche allora, iniziavano allora, all'opera nascente dei pellegrinaggi in quel santuario, e lo faceva con la predicazione, con una preghiera ardente, ma anche con la divulgazione dei libri che scriveva soltanto per infuocare i cuori e gli animi di un amore grande verso il Signore e la Madonna. Quindi buona parte del suo tempo lui lo donava proprio come presenza al santuario per assistere i pellegrini, che erano tantissimi e giungevano di continuo da tutte le diocesi del Canada ormai, come aveva predetto. E proprio in questa missione, cari amici, donava, se era possibile, ancora di più, tutto se stesso. Sul pulpito era di una carità ardente e la sua parola veramente trasformava i cuori, portando tantissimi alla conversione e ovviamente a un radicale cambiamento di vita. Noi pensiamo che fosse, diciamo, visto che colpiva i cuori, che avesse un'oratoria particolare, no? Che fosse, avesse doti particolari, assolutamente no. Non aveva nessun tipo di dote oratoria, era di una semplicità incredibile, non ha mai usato, pur essendo acculturato al massimo grado, parole diciamo forbitissime, quindi che il popolo non poteva capire, ma il Signore gli concesse in modo non comune proprio il dono della parola, e le persone lo sentivano così vicino, pensate, da chiamarlo Santo Padre, non perché fosse il Papa, ma perché era un santo ed era, essendo religioso, un sacerdote, era padre, quindi Santo Padre, e gli volevano bene proprio per il modo semplice sì, ma profondamente evangelico con cui parlava di Gesù, della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei misteri della fede, come diceva lui, anche del bel paradiso. Fu, possiamo dire, un predicatore popolare nel miglior senso della parola, come Sant'Alfonso de Liguori o San Leonardo da Porto Maurizio, che aveva presi a modello. Non tutti approvavano però la semplicità con cui predicava. Ma lui, anziché, e quindi lo criticavano, ma anziché dispiacersene, le spendeva con un sorriso, non perché non gli interessava, ma perché sapeva bene che quello che faceva era la sua sincerità di cuore e di fede che portava e abbracciava i fratelli, e doveva rispondere a Dio, non alle persone. Lui sapeva che di fronte a Dio era quello il suo apostolato, il Signore quello gli chiedeva. E il suo superiore, il padre Colombano Dreyer, proprio nel processo canonico attestò, disse: si può cegliare, cioè si può discutere, criticare sui sermoni del padre Federico Janson, a causa della semplicità e familiarità. Per conto mio, disse il padre, affermo di non avere mai veduto un oratore esercitare un influsso sulle folle simile al suo. Egli, quando voleva, faceva ridere e piangere nel medesimo sermone. Le chiese, dice questo padre, erano sempre troppo piccole per contenere i fedeli. Per vederlo e udirlo, certuni montavano addirittura fin sopra i confessionali. Quindi non meraviglia che i parroci facessero a gara per invitarlo a tenere nelle loro parrocchie le missioni, le novene, a predicare le 40 ore, oppure la preparazione ai loro pellegrinaggi. E lui, pensate, pur essendo profondamente timido e amante della solitudine, quando si trattava proprio della salvezza dei fratelli e delle anime, diventava di un dinamismo sorprendente e una fiaccola ardente. E quando partiva per i suoi lunghi viaggi, portava con sé solo un sacchetto con il breviario e i libri di cui aveva bisogno. Camminava poi d'ordinario a piedi scalzi, nonostante l'inclemenza della stagione. Ricordiamoci che siamo in Canada, quindi era un freddo terribile, quindi con la pioggia, con la neve, e recitava la corona del Santo Rosario. E questa corona, pensata, l'aveva fatto con grani grossolani infilati tutti in una cordicella di cotone. E dovunque giungeva si preoccupava di far conoscere anche il santuario della Madonna del Rosario e soprattutto la bellezza di questa meravigliosa madre che è Maria, che tanto ci ama. E molte volte li portava lui stesso, erano schieri di pellegrini dalle varie diocesi, li portava al santuario. Ma anche qui, sia per la gelosia, purtroppo, e per la malizia, molti a cui dava fastidio questa santità così amata dal popolo e che rimproverava, dicevamo, anche alcuni generi di vita, veniva criticato aspramente, gli davano dell'incapace, del buono a nulla, del nulla facente. Ma egli non si curava di tutte queste critiche, pregava per questi suoi, diciamo, anche nemici, in un certo senso, ma continuava ad organizzare i pellegrinaggi che erano sempre belli, edificanti, perché per tutta la loro durata egli era totalmente dei fratelli, rinunciava anche a quel poco cibo della giornata pur di spiegare loro i misteri del Santo Rosario, farli recitare ad alta voce con una fede e una solennità incredibile. Non solo, nel santuario, prima e dopo la celebrazione della messa, riceveva come sempre, in modo particolare, i poveri e gli ammalati. E per tutti aveva una buona parola e una benedizione. Le persone avevano una fiducia straordinaria in lui. Pensate, ci viene detto, alcuni gli dicevano, alcuni ammalati, no? Se volete, padre mio, voi potete guarirmi, basta che pregate per me. Ma nella sua umiltà lui scherzava per le guarigioni dei malati che gli venivano attribuite. Lui diceva che non era opera sua, ma erano le reliquie della Santa Croce e della Terra Santa che portava con sé, ma in particolare era la fede che gli ammalati mettevano nel pregare Gesù e la Madonna per avere il dono della guarigione. Ed era devotissimo della passione di Gesù. Era talmente devoto, pensate, che quando parlava dei dolori del Signore, spiegando il dolore, anche fisico, oltre che morale, di questo dolore immenso del mondo che Gesù si era addossato, spesso si commuoveva fino alle lacrime e muoveva al pianto anche quelli che erano vicino a lui. Intanto, proprio per il tanto lavoro che aveva, nel 1902 la direzione del santuario della Madonna del Rosario fu affidata ai padri oblati di Maria Immacolata. Non riusciva più ma lui continuò a diffondere lo stesso la devozione, a guidarvi in pellegrinaggio, oltre ai terziari francescani, anche gli altri fedeli. Nel frattempo, il 12 ottobre del 1904, per volere di San Pio X, proprio la statua della Madonna di Cap de la Madeleine venne solennemente incoronata. E se non sbaglio, cari amici, questa è la seconda incoronazione ufficiale autorizzata dalla Santa Sede dopo quella della Madonna di Guadalupe. E qui il padre Federico Janson ebbe anche il felice compito di portare in processione la corona d'oro che venne posta sul capo di Maria. Ma oltre che predicare, pregare e anche, diciamo, portare tanti pellegrini ad un cammino di fede e di santità, il nostro beato Federico Janson esercitava anche l'apostolato della stampa. Succedeva che di notte dormiva poco, allora buona parte del tempo redigeva per esempio gli annali del Santo Rosario, l'amava in modo enorme questa preghiera, oltre che, avevamo detto, amante dell'Eucaristia in modo incredibile, oppure scriveva articoli per la rivista Eucaristica e scriveva anche le vite dei santi. Don Ludovico Dugay, il vicario del santuario di Cap de la Madeleine, disse di questo suo infaticabile collaboratore. Qui ci ricorda un po' San Tommaso d'Aquino, quando scriveva la Summa Teologica, la scriveva apriva il tabernacolo e parlava con Gesù, e intanto scriveva. Diceva questo Don Ludovico Dugay di padre Federico Janson: l'ho sorpreso più volte inginocchiato davanti al suo tavolo di lavoro, sormontato dal crocifisso, intento allo stesso tempo a meditare e a scrivere. Chi io sappia ha composto così una ventina di volumi. E proprio con la diffusione di queste opere nelle varie diocesi del Canada in cui lui andava a predicare, oltre ad aiutare la custodia di Terra Santa e le persone che abitavano lì, aiutava anche le altre necessità di altre famiglie religiose. Faccio un esempio: quando le missionarie francescane di Maria decisero di costruire nel Quebec una chiesa per l'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento, egli cosa fece? Le aiutò diffondendo in tutte le parrocchie della diocesi la vita di Gesù che aveva scritto. Quindi con i proventi le aiutò. Nello stesso modo aiutò le Clarisse della diocesi di Valleyfield a costruirsi il convento e aiutò anche le suore del Preziosissimo Sangue della diocesi di Joliet a fondare una loro casa. Queste donne, queste suore non avevano nulla. Insomma, quando si trattava di un'opera di carità da sostenere, lui era sempre il primo. E nonostante le contrarietà, e vi assicuro, non posso descriverle tutte, ma ne ebbe davvero tantissime, e anche le difficoltà, perché molte volte gli ha messo i bastoni tra le ruote, le difficoltà che incontrava, non perdeva mai la calma e l'abituale allegria. Diceva spesso che la volontà di Dio si compia, e proprio Dio era il suo amore e il suo tutto, nel modo più pieno e più vero. Alle 3 del mattino era già in chiesa per le sue pratiche di devozione. Celebrava la Santa Messa con un raccoglimento serafico e poi faceva seguire almeno mezz'ora di ringraziamento. Se poi nel corso della giornata riusciva ad avere qualche minuto, era prostrato davanti all'altare del Santissimo con la testa avvolta nel suo mantello. A causa però di un tumore allo stomaco, che da molti anni ormai lo tormentava, le sue condizioni di salute cominciarono a declinare rapidamente. Proprio durante la sua degenza nell'infermeria del convento San Giuseppe a Montreal, quindi in Canada, volle avere accanto a sé l'abito religioso, la santa regola, la corona del rosario che lui aveva costruito e il suo crocifisso di missionario che tante volte aveva deposto ai piedi degli infermi da cui aveva ottenuto tante guarigioni. Ma fu anche, cari amici, un periodo di grande prova quello, perché pensate, in quei 50 giorni di ricovero, perché poi morì dopo questi 50 giorni, fu assalito da tentazioni diaboliche che lo volevano portare alla disperazione ed altre vessazioni demoniache. Furono giorni incredibili, di grande sofferenza, ma anche ora, in quei momenti, accettava tutto e offriva a Gesù e alla Vergine Maria, e morì così, abbandonato alla volontà di Dio. Era il 4 agosto 1916, aveva 77 anni. Venne sepolto tra una marea di gente nella cripta della chiesa dell'Addolorata di Trois-Rivières e San Giovanni Paolo II ne riconobbe l'eroicità delle virtù, beatificandolo il 25 settembre del 1987 e usò queste parole riguardo a questo beato, il Papa. Disse: «La liturgia della domenica di oggi professa e onora la verità richiusa racchiusa nella parola del Dio vivente. In virtù del suo sacrificio pasquale, in virtù della croce e della risurrezione, Cristo ha effuso lo Spirito Santo sugli Apostoli e lo ha trasmesso alla sua Chiesa. Tutti nella Chiesa, in forza del battesimo, partecipano alla missione di Cristo, del grande profeta, del Figlio che è sul trono del Padre. La partecipazione a tale missione profetica, dice il Papa, risalta in particolare misura nella vicenda dei Santi, di coloro che mediante la parola del Dio vivente sono consacrati nella verità. E qui inizia con, ricordando il beato Federico. E dice: fin dall'infanzia il nuovo beato Frédéric Janson ha conosciuto la sofferenza, ha dovuto anche lavorare molto presto. Dopo queste esperienze che l'hanno fatto maturare, ha abbracciato generosamente l'ideale di San Francesco d'Assisi. Inviato in Terra Santa, visse con ardore nello spirito francescano, contemplando il mistero di Cristo nella passione e nella risurrezione. Egli celebrava con una fede impressionante la presenza del Salvatore nel sacramento dell'Eucaristia. Fu un testimone che sapeva far partecipare alla sua intimità con il Signore. Vero figlio di San Francesco, padre Frederick ci dà l'esempio di una preghiera contemplativa che abbraccia l'opera della creazione, gli eventi della vita quotidiana, ogni incontro personale. Potessimo anche noi, dice il Papa, accogliere semplicemente, come lui, lo spirito effuso dal Signore sul suo popolo. Il buon padre Frederick ci mostra che lo spirito contemplativo, lungi dal frenare lo zelo apostolico, lo fortifica. Vicino a Dio e vicino anche alla gente. L'intero santo in Canada non smette di esortare chi lo incontra ad impegnarsi nella via evangelica, secondo lo spirito del terzo ordine francescano, e anche nell'apostolato concreto della vita familiare e professionale. E conclude: attento e fraterno con i più piccoli per la loro appartenenza a Cristo, il padre Frederick condusse i suoi contemporanei ad essere testimoni ardenti e coerenti del Vangelo. La sua glorificazione da parte della Chiesa contribuisce a suscitare nell'ordine francescano e nella Chiesa uno slancio rinnovato di santità e di zelo apostolico. E concludo, cari amici, questa trasmissione dicendo che il beato Federico Janson ci dia sempre, ad ognuno di noi, la fedeltà e il coraggio di essere sempre e solo di Cristo nostro Redentore.